Economia in pagina. Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento settimanale dedicato ai libri di economia. Oggi parliamo con il professor Flavio Felice. Buongiorno, professor Felice. Buongiorno a lei, direttore. Flavio Felice, professore di dottrine economiche e politiche alla Pontificia Università Lateranense, di filosofia d'impresa alla LUIS Guido Carli e direttore della Fondazione Nove Terre, presidente del Centro Studi Tocqueville Acton. E ha scritto un libro, L'economia sociale di mercato, edito da Rubettino. L'economia sociale di mercato, che cos'è, professor Felice? Ma è un'espressione oggi abbastanza diffusa. In realtà il desiderio di scrivere un libro su questo concetto di economia è venuto proprio dalla lettura di alcuni articoli durante l'estate, in cui si faceva riferimento a questa dottrina, appunto, l'economia sociale di mercato, senza fare un riferimento esplicito alla radice. Allora, si tratta di una scuola di pensiero che nasce nella metà degli anni 30 in Germania e avendo come centrale operativa l'Università di Friburgo. Gli autori fondamentali sono stati Walter Eucken, Wilhelm Repke, Franz Böhm e tantissimi altri, i quali proprio sul finire degli anni, intorno alla metà degli anni 30, nel mezzo del nazismo, cominciarono a riflettere intorno ad un nuovo ordine per i tempi, un nuovo ordine per i secoli a venire, e sulle macerie dell'economia europea dell'epoca cominciarono a ragionare appunto di questo nuovo ordine economico. Ecco, è una scuola, diciamo, di pensiero economico che ha avuto poi i suoi riflessi politici, per esempio con Erhard in Germania, e che ha avuto anche in Italia i suoi, diciamo così, cantori, coloro che hanno preso appunto questa dottrina e hanno cercato di far attuare o di attuare una politica economica che rispondesse a questi principi. Chi sono stati? Beh, qui sono, iniziano, possiamo dire, le dolenti note, perché mentre in Germania Erhard ha avuto un grande successo, Adenauer idem, in Italia gli autori che in qualche modo hanno tentato di portare questa teoria economica sono stati, in modo particolare è stato Luigi Einaudi. Ecco, con Luigi Einaudi tuttavia questo proposito, questo progetto, questa idea non ha avuto un grande successo, soprattutto perché in sede di assemblea costituente in Italia non si è realizzato il perno intorno al quale ruota l'intera dottrina della teoria dell'economia sociale di mercato, ovvero una costituzione economica aventi al proprio centro il principio di concorrenza. Principio di concorrenza che invece poi ritroviamo, quindi in un certo senso poi ritorna dall'esterno in sede di costituzione di comunità europea. Ecco, gli atti costitutivi della comunità europea prenderanno in considerazione questo principio, e poi sia nei trattati di Roma fino ad arrivare a Maastricht. Però ecco, Luigi Einaudi è sicuramente stato il campione, e non un economista ma un sociologo che ha dato un grande contributo allo sviluppo delle teorie economiche e teorie anche politiche economiche in Italia, Luigi Sturzo. Ecco, con Sturzo abbiamo il versante cattolico di questa riflessione. Ecco, due personalità che appunto poi non sono riuscite ad avere una grande incidenza nell'economia italiana, tanto che lo stesso Luigi Einaudi scriveva che le sue teorie erano delle prediche inutili, perché vedeva che non si riusciva a far entrare appunto questa logica di fondo, una logica di fondo che, riassumendo, può essere del fatto che lo Stato deve aiutare il mercato a funzionare, non contrastare il mercato, e il mercato funzionando ottiene sempre maggiore efficienza, offre servizi di sempre maggiore qualità, e lo Stato poi supporta questa azione entrando appunto nella logica di mercato e cercando di aiutare a redistribuire la ricchezza che viene prodotta secondo delle modalità di sociali. Ecco, mentre la società italiana ha visto sempre più un'ingerenza dello Stato nella realtà del mercato e quindi un cercare di cambiare le stesse regole del mercato. In questo l'Italia è rimasta ferma sul fronte dell'economia sociale di mercato. Professor Flavio Felice. Sì, è rimasta ferma. Infatti bisognerebbe, spesso si fa riferimento all'economia sociale di mercato come una sorta di terza via tra capitalismo e socialismo. Ecco, questo è nulla di più sbagliato, nel senso che i teorici dell'economia sociale di mercato erano fermi sostenitori dell'economia libera, dunque dell'economia di mercato. D'altra parte riconoscevano che un'economia libera non sempre tendenzialmente è capace di preservare, no, la genuinità del mercato rispetto alla formazione di cartelli e di monopoli. Qui interviene dunque lo Stato attraverso una propria costituzione economica per impedire che si formino quegli ostacoli al mercato stesso. Il mercato deve essere tutelato, ecco, il mercato è un po' come una democrazia, è preziosa ma anche molto, molto fragile, va quindi tutelata. In Italia la Costituzione economica italiana non sempre ha tutelato il mercato e lo Stato non è sempre stato l'arbitro che individua le regole del gioco, ma più delle volte è divenuto parte del gioco, in questo caso divenendo giocatore controllato e controllore, ovviamente ha squilibrato il sistema, l'equilibrio in campo. Ecco, questo perché ci vuole una grande fiducia in fondo nella libertà, nella libera iniziativa delle persone, nel fatto che il mercato possa offrire le possibilità per sfruttare al meglio le risorse all'interno di un singolo paese. Ecco, forse in Italia si ha più fiducia in uno Stato a cui si affidano tanti compiti, non solo quello di garanzia, non solo quello di redistribuzione, non solo quello di garantire l'equità, ma anche un compito di propulsione dell'economia che invece dovrebbe essere affidato alle logiche maggiormente di mercato. In questo senso un'Italia che forse ha perso competitività, ha perso anche capacità di iniziativa nei confronti degli altri paesi, perché il mercato è stato un po' soffocato dalle logiche di uno Stato che è stato molto vasto, che ha esteso la sua presenza, che ha esteso anche le sue possibilità di incidere magari con gli strumenti amministrativi, con le logiche burocratiche, con le logiche delle autorizzazioni, di incidere sul normale scorrimento degli affari, sul normale scorrimento del mercato. Professor Flavio Felice. Eh sì, qui ci viene incontro il contributo di Luigi Sturzo, soprattutto al ritorno dal suo pluriquadentennale esilio, è stato 22 anni in esilio, tornando nel 1946 lamentava esattamente questo espandersi dello Stato e l'emergere delle tre malebeste, della partitocrazia, dello statalismo e dello sperpero del denaro pubblico. In questo modo, affermava Sturzo, le persone, coloro, gli autentici motori, no, del dinamismo sociale, vengono a perdere quel senso di responsabilità, vex actio dat intellectum, e perdendo questo senso di responsabilità anche la voglia di iniziativa. Ecco, questo è stato il dramma degli ultimi 60 anni nel nostro paese, che hanno però radici molto lontane. Il capitalismo italiano si è sviluppato sulle ceneri di un sistema feudale e in un certo senso ne ha riprodotto quei vizi, cioè una sorta di paternalismo che sostituisce l'idea del nobile, l'idea della nobiltà e dunque della signoria feudale con un'idea di paternalistica statale. Ecco, c'è stata questa trasposizione e oggi ancora ne paghiamo in un certo senso le conseguenze. Ecco, lo Stato purtroppo in Italia ha avuto questa funzione, non potendo di conseguenza svolgere quei compiti che gli sono propri. Dovendo fare tutto, non ha fatto bene quelle poche cose che in realtà lo Stato deve fare bene. Ecco, in questo lei ricordava appunto Sturzo, un sacerdote, e anche lo stesso mondo cattolico ha spesso spinto per un maggiore intervento dello Stato come risolutore, e forse si è dovuto aspettare fino alla centesimus annus per avere una dottrina sociale della Chiesa che fosse più aperta all'economia di mercato, a quella che viene chiamata nella centesimus annus un'economia di impresa. Anche lo stesso mondo cattolico probabilmente negli anni del dopoguerra ha preferito un intervento diretto nell'economia, pensiamo alle partecipazioni statali che erano state teorizzate, rispetto a una maggiore libertà di azione all'interno del mercato. Eh sì, io in questo mio libretto ho riportato proprio un capitolo relativo al dibattito in sede di Assemblea Costituente, proprio nell'elaborare la teoria economica che poi abbiamo ritrovato sulla Carta Costituzionale, e lì i cattolici hanno trovato sponda presso, diciamo, gli ambiti culturali, politici e culturali del Partito Comunista, proprio per far valere un'idea di Stato estremamente paternalistico. Con la centesimus annus possiamo dire che pure abbiamo una grande rivoluzione. C'è il paragrafo 42 della centesimus annus, dove il Giovanni Paolo II si domanda se all'indomani della caduta dei sistemi comunisti il capitalismo ha vinto, e lì pone una risposta dicendo che la risposta è complessa, però poi specifica dove è la complessità, cioè se per capitalismo si intende un sistema basato sulla libertà, sull'impresa, sulla responsabilità, sulla proprietà e dunque la responsabilità sui mezzi di produzione all'interno di una cornice, ecco qui l'elemento di l'elemento di economia sociale di mercato all'interno di una cornice legislativa, allora la risposta è positiva, altrimenti no. Ecco, in questo Giovanni Paolo II individua la linea di demarcazione, una sorta di principio di demarcazione che individua un capitalismo rettamente inteso, un capitalismo da rifiutare, e credo che questo sia veramente in sintonia con l'economia sociale di mercato. Ecco, in questa prospettiva, e per concludere, anche in una fase come questa di crisi finanziaria, in cui l'intervento dello Stato appare importante, appare quasi fondamentale per salvare alcune istituzioni capitalistiche, pensiamo al sistema bancario, resta comunque valido il fatto che lo Stato dovrebbe essere l'arbitro e lasciare far funzionare il mercato, cercando di rimediare a quelli che possono essere i fallimenti di questo stesso mercato, ma senza sostituirsi a questo che finora si è dimostrato uno degli strumenti più utili, più efficaci, ma sempre uno strumento per realizzare un'economia di crescita, un'economia che sappia garantire la produzione di ricchezza e la creazione di valore. Professor Flavio Felice. Sì, possiamo dire che il maggior contributo che questa teoria di pensiero economico ha dato è quella di deideologizzare il pensiero economico. Ecco, non si tratta più di ragionare in termini più Stato, meno mercato, più mercato, meno Stato, ma semplicemente di individuare i ruoli di ciascun soggetto che opera all'interno del sistema economico. Parlare che lo Stato non deve intervenire nel mercato è un non senso, perché lo Stato esiste e quindi non può non intervenire. Bisogna capire l'ordine e la natura dell'intervento. Gli economisti dell'economia sociale mercato usavano l'espressione intervento conforme. Conforme a che cosa? Conforme all'ordine di mercato, e quindi lo Stato interviene, può intervenire, non importa l'elemento quantitativo, ma l'elemento qualitativo. Certo, è un intervento conforme al mercato o meno. Quindi potremmo dire più Stato e più mercato per uscire anche da questa crisi. Grazie professor Flavio Felice, autore del libro L'economia sociale di mercato, l'editore Rubettino, le pagine sono 110, il prezzo 8 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è alla prossima settimana.